Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. La luce arrivò in una sera gelida di ottobre. Nuoro era coperta come da una ragnatela, i fili correvano da un capo all'altro delle vie e dei vicoli, e i proprietari delle case, che non avevano un braccio di ferro con le tazzine di porcellana infisso nel muro, si sentivano come diminuiti, perché il senso del nuovo e dell'ignoto era più forte di quello della proprietà. Ma nel corso, nella antica via Maiore, i figli di Don Pasqualino avevano steso i fili di traverso e ogni 30 metri nel mezzo della strada pendevano le lampadine dai piatti di ferro smaltato. Tutto il paese era uscito di buon'ora per assistere, pieno di diffidenza e anche di malaugurio, all'avvento. Le donne di buona famiglia occhieggiavano dalle finestre e ciascuno si teneva per sé i suoi pensieri. Solo il signor Gallus, che era il maestro di ginnastica ed era venuto di fuori, disse a voce alta in un crocchio quel che pensava. «Voglio vederle io queste candele accendersi a testa in giù». Ed improvviso, come in un'aurora boreale, queste candele si accesero e fu fatta la luce per tutte le strade. Proprio da San Pietro a Seuna, un fiume di luce tra le case che restavano immerse nel buio. Un urlo immenso si levò per tutto il paese, che sentiva misteriosamente di essere entrato nella storia. Poi, gli occhi stanchi di guardare, la gente infreddolita rientrò piano piano nelle proprie case o nei propri tuguri. La luce rimase accesa inutilmente. Si era levata la tramontana e le lampade sospese nel corso coi loro piatti si misero a oscillare tristemente, luce e ombra, ombra e luce, rendendo angosciosa la notte. Questo coi fanali a petrolio non avveniva. I quali restavano attaccati e morti nei muri e ponevano un grosso problema cui nessuno aveva pensato. Che farne? Erano costati circa 20 lire l'uno, Don Priamo se lo ricordava ancora. L'illuminazione elettrica era un evento, come oggi si usa dire, irreversibile, cioè ai lampioni non si sarebbe tornati mai più. Allora avvenne un fatto che nessuna cronaca del mondo, io credo, abbia mai registrato. Nuoro, con la sua aureola di luce, era come una nave nelle tenebre dell'oceano. I paesi vicini continuavano nella loro notte. Il più vicino di tutti era, proprio di là dalla valle, Oliena, come dicono le carte, ma il suo vero e più poetico nome è Uliana, con l'accento su lì. È un meraviglioso paese, ai piedi del monte più bello che Dio abbia creato, e produce un vino nel quale si sono infiltrate tutte le essenze della nostra terra: il mirto, il corbezzolo, il cisto, il lentischio. Il monte è calcareo e perciò è costellato di punti bianchi che sono i forni della calce. Ogni olienese possiede, come dicono, parti di vigna e parte di forno, e così tutti sono poveri e ricchi, e sono allegri, i soli sardi allegri nei loro rutilanti costumi, e ogni domenica fanno il ballo tondo nella piazza sconnessa della chiesa. Del resto danzano anche quando camminano, e specie le donne quando tornano da Nuoro coi piedi nudi e con le scarpe al collo, quasi librate sulla strada bianca solcata dall'acqua. I nuoresi li tengono un po' in dispregio o li considerano come grandi bambini. Ora, dalla piazza di Oliena, Nuoro appare come un'immensa fortezza, con l'abside della chiesa a picco sulla valle, il molino rosso, le case alte di San Pietro. Solo un angolo, perché Nuoro, come mi pare di aver detto, si riversa tutta dall'altra parte. Ma quella sera di ottobre tutti gli olienesi si erano raccolti, uomini, donne, bambini, con gli occhi volti in su, perché la fama si era sparsa, e a un tratto apparve quella magia luminosa nell'immenso vuoto, e fu anche a Oliena un urlo di gioia. Cosa c'entravano, se non forse per via del miracolo, che è miracolo per tutti, non si sa bene. E invece c'entrarono, e come, perché non si può stabilire con precisione da chi sia partita l'idea, ma il fatto è che i morti fanali di Nuoro presero la via di Oliena, furono venduti con la scala del lampionaio ai vicini poveri e vennero da Oliena il sindaco col costume nuovo e il segretario a stipulare l'atto. I nuoresi si fregarono le mani di nascosto e alla sera andavano a Sant'Onofrio a vedere Oliena che si illuminava, un fanale dietro l'altro che si potevano contare, e chissà se anche lì i ragazzini non correvano appresso al lampionaio a raccogliere i fiammiferi spenti. Ma io sono incamminato verso il cimitero e i miei pensieri si perdono in questo modo. Sono venuto qui tra un piroscafo e l'altro per vedere se riesco a mettere un po' d'ordine nella mia vita, a riunire i due monconi, a ristabilire il colloquio senza il quale queste pagine non possono continuare. Ed eccomi vagare appresso ai fili della luce elettrica in balia di vani ricordi. Cammino al centro della strada senza guardarmi intorno, ma sento che le porte si aprono al mio passaggio e occhi curiosi e diffidenti scrutano lo straniero che si avventura per il sobborgo in queste ore mattutine. Mi giungono lievi bisbigli e comprendo che nessuno mi riconosce. E se io mi fermassi e mi rivolgessi a quella donna di mezza età, dal ventre prominente, che mi segue con occhi aguzzi, e le dicessi: «Tu sei la nipote o la pronipote di Peppedda e Maria Iubanna?» O a quell'altra, che è apparsa col fazzoletto ripiegato sulla testa e un ramaiolo nella mano: «Tu sei la nipote o pronipote di Luisa e Maria Zoseppa?» col matronimico che è il segno della antica comune razza. Come in un negativo che si sviluppa, volti remoti ricompaiono in questi che mi circondano. Gente sparita dalla terra e dalla memoria, gente dissolta nel nulla, e che invece si ripete senza saperlo nelle generazioni, in una eternità della specie, di cui non si comprende se sia il trionfo della vita o il trionfo della morte. Mi sembra di essere già nel cimitero dove sono diretto, un cimitero di vivi, certo, ma non sono i vivi che sono venuto a cercare in Saemanca, nel camposanto dominato dalla rupe che sembrava una parca. Eccomi sboccato nella piazza del Rosario, la chiesa all'uscita dal paese, dove i morti sostavano quasi per prendere fiato prima dei fatali 500 metri che per prati e muriccioli li portavano a morire davvero. Il quartiere del Rosario era un pezzo di San Pietro, c'è poco da discutere, ma la missione della chiesa gli dava un'impronta metafisica che San Pietro si guardava bene dall'avere. Formalmente l'officiante era prete De Lussu, il fratello del Maniscalco, che claudicava nel suo grosso corpo pieno di sangue e di vino, ma nelle realtà chi riceveva il morto era tutto il quartiere. All'ora fissata per l'interro, le campane di Santa Maria gettavano quei grossi rintocchi dondolanti che facevano fermare la gente per la strada a chiedere chi è il morto, naturalmente se non si trattava di persona nota. Duravano un quarto d'ora. Poi, d'improvviso, quella stessa campana così severa si abbandonava a una specie di galoppo che fluiva giù per la ripida discesa. Era il momento in cui il prete in cappa nera, un sacrista davanti con la croce a stile e uno al fianco col turibolo, usciva dalla cattedrale, tutto partiva di lì, a prendere il morto. Potevano essere tre preti, sempre in cappa nera, se la famiglia li voleva e li pagava. Ed era sempre una scena frettolosa che imbronciava il cielo e la terra. Ma poteva essere l'intero capitolo, coi canonici in doppia fila e l'ermellino e il tricorno filettato di rosso, e allora Tutto si svolgeva con pacata lentezza, tra canti di morte e di gloria, cui dava l'avvio e segnava il tempo, l'odiato arciprete. Una macchia di colore, uno spettacolo che la famiglia offriva e doveva offrire, se era ricca, alla gente che usciva di casa man mano che il morto passava per mettersi appresso. La teoria dei canonici si svolgeva lungo il corso e tra le file delle casette basse, e nella solennità del canto si sentiva che essi ascoltavano la loro voce e nessuno certo pensava a mettersi al posto di quel poverello dentro la cassa. Ma queste sono cose poco importanti. Il fatto è che appena la campana ritmava il galoppo, le donne uscivano dalle dimore attorno alla chiesa, suscitavano prede de lusso, si facevano dare la chiave, spalancavano la porta rossigna e trascinavano dalla sagrestia un vecchio tavolo che disponevano in mezzo alla rustica navata. Qualcuna dava un colpo di scopa sollevando un nugolo di polvere, qualche altra ripuliva i santi gelati dentro le nicchie o aggiustava la corona di stelle intorno alla Madonnina bianca e blu, o disponeva gli attrezzi per la benedizione e per l'accensione delle candele. Poi tutte si recavano sulla soglia per la grande attesa, perché esse erano le ospiti del nuovo venuto e spiavano l'arrivo. Quando lo vedevano spuntare, issato sulle spalle pietose dei confratelli, chiamavano prete de lusso, gli facevano strada fino a lui ed egli se lo pigliava, lo faceva posare sul tavolo e là recitava le preghiere con voce sommessa, che pareva facesse quattro chiacchiere col morto. Ora hanno rifatto la facciata del rosario con blocchetti di cemento ed è chiaro che i morti non ce li portano più, o che non abbia bisogno di sosta, o che non muoia più nessuno, come è più probabile. Anche questo ha poca importanza. In fondo, la caratteristica nei nostri tempi è quella di aver reso le cose senza importanza. Lascio la piazza, lascio le vie nuove che non riconosco, lascio le ultime casette affacciate con indifferenza sul camposanto. Per la prima volta mi par di capire l'arcano significato del pomerio e mi trovo di fronte al luogo che è stato l'oggetto o la ragione del mio viaggio. Fanciulla, attorno al tuo bianco recinto, prono e un bifolco sulla stiva, ed ara. La lodoletta, con sua voce chiara, l'accompagna dai cieli di giacinto. Perché mi sgorgano dalla memoria questi antichi versi? È come se ai miei occhi rispuntasse la prima alba del mondo. Queste costose muraglie che hanno sostituito e inghiottito il vecchio cimitero e lo hanno fatto troppo grande per i vivi e per i morti, svaniscono. Cosa direbbe Don Priamo se si svegliasse là dentro? Ancora il bifolco ha ripreso il suo aratro e l'opera di vita che solca la terra si accompagna dentro il recinto all'opera di Milieddu, il becchino di tutti i nuoresi, che è anch'essa opera di vita, e per tutti canta sospesa nel cielo la lodola. È un momento di poesia, come qualche volta avviene, e il mio segreto timore cede a un'interna gaiezza. Mi avvicino al cancello che hanno sostituito al corroso portone e mi preparo a cercare Milieddu senza pensare che oggi dovrebbe avere almeno 100 anni. Aveva una lunga barba rossiccia e rossiccio era il volto solcato dall'aria e dal sole. Poteva essere quello stesso bifolco che aveva lasciato per un momento l'aratro e in realtà non era altro che un contadino, sia pure sottratto ai rischi e alle intemperie. Era un uomo buono e pareva chiedere scusa a ogni morto di doverlo seppellire, ma tant'è, lo seppelliva senza curarsi se fosse povero o ricco, se fosse Fileddu o Don Sebastiano. E questo non gli procurava né odio né amore, ma lo rendeva come il padrone di tutti. Era come se ciascuno avesse un altro se stesso, lui e Milieddu. E quando si parlava e qualcuno chiedeva se proprio era sicuro di quel che diceva, la risposta era «sicuri si è in mani di Milieddu». Insomma, a Nuoro la morte aveva un nome. Varco il cancello. Ci sono due giovinotti, gagliardi, con una divisa da corvo, seduti in ozio, come soldati di un corpo di guardia. Chissà come avrà fatto Mileddu a seppellirsi da sé. Mi osservano indifferenti. Il cimitero si è dilatato fino alle estreme falde del monte e ricorda quelle esposizioni di statuine di gesso o di terracotta che si trovano all'ingresso delle città. Mi incammino tra viali leziosi pieni di nomi che non mi dicono nulla. Sta per prendermi la terribile angoscia del nulla, come quando si traversa una piazza o ci si aggira per una casa deserta, e finalmente scorgo in fondo a un vialetto di cipressi polverosi una chiesa di cemento, come quella del Rosario. Subito capisco che l'hanno messa al posto della cappelletta sbrecciata dove i pacifici vescovi nuoresi se ne stavano in fila, aspettando la certissima resurrezione. Il punto è qui. Ecco i due angeli di marmo, curvi mestamente uno sull'altro, che piangevano in eterno gli orgogliosi morti della famiglia Mannu. Ecco la pietra tombale di Boelle Zincheri, il farmacista che lasciò tutto all'ospedale in odio ai parenti. Quella di Don Gaetano Pilleri, che continuava senza la croce il suo odio per i preti. Ecco le prime tombe delle famiglie pastorali, coi loro nomignoli diventati nomi e i fieri ritratti in costume negli ovali di smalto. Ecco la stele infranta di un giovinetto con una scritta: «Tu piangi e io dormo lontan nel campo santo», che angosciava le mie notti. Ecco il modesto recinto di ferro che racchiude Maestro Manca e gli impedisce di ridiventare Peduzza, Pietruzza, e tornare alla bettola nella quale scivolò sotto il tavolo, ucciso dall'ultimo bicchiere di vino che stava assorbendo. Con un raggio di 100 metri potrei segnare di qui i termini delle vecchie umide mura. Basta seguire tutto ciò che è annerito dal tempo, slabbrato, dimenticato, ciò che è morto la seconda volta. E di là, da queste povere tombe, ancora si stende un breve tratto di terra, breve e infinito, con qualche avanzo di croce a sghimbescio, qualche croce riversa, come se abbia esaurito la sua funzione. Mi chiedo se ci sia più speranza in tutte quelle tombe dove i morti se ne stanno soli, o in questa terra sotto la quale le ossa di infinite generazioni si accumulano e si confondono, si sono fatte terra anch'esse. In questo remotissimo angolo del mondo, da tutti ignorato fuori che da me, sento che la pace dei morti non esiste, che i morti sono sciolti da tutti i problemi, meno che da uno solo, quello di essere stati vivi. Nelle tombe etrusche rugumano i bovi, le più grandi sono fatte ovili. Sui lettini di pietra posano le pentole e le fiscelle, gli umili arnesi della vita pastorale. Nessuno ricorda che siano tombe, neppure l'ozioso turista che si arrampica sul sentiero scavato nella roccia e si avventura nel buio profondo dove risuona la sua voce. Eppure essi sono ancora là, da 2000, 3000 anni, perché la vita non può vincere la morte, né la morte può vincere la vita. La resurrezione della carne comincia il giorno stesso in cui si muore. Non è una speranza, non è una promessa, non è una condanna. Pietro Catte, quello che si era impiccato ad un albero la notte di Natale nella tanca di Biscollai, credeva di poter morire, ed ora anch'egli è qui, perché i preti, facendolo passare per pazzo, lo hanno sepolto nella terra consacrata, con Don Pasqualino e Fileddu, Don Sebastiano e Zio Poddanzu, Canonico Fele e Maestro Ferdinando, i contadini di Seuna e i pastori di San Pietro, i preti, i ladri, i santi, gli oziosi del corso, tutti in un groviglio inestricabile, qui sotto. Come in una di quelle assurde processioni del paradiso dantesco, sfilano in teorie interminabili, ma senza cori e candelabri, gli uomini della mia gente. Tutti si rivolgono a me. Tutti vogliono deporre nelle mie mani il fardello della loro vita, la storia senza storia del loro essere stati. Parole di preghiera o d'ira sibilano col vento tra i cespugli di timo. Una corona di ferro dondola su una croce disfatta. E forse, mentre penso la loro vita, perché scrivo la loro vita, mi sentono come un ridicolo Dio che li ha chiamati a raccolta nel giorno del giudizio per liberarli in eterno dalla loro memoria. Maestro Mossa usciva alle 8:30 tutte le mattine, tranne il giovedì e la domenica, che in quei tempi erano giorni di vacanza, dalla sua casetta posta all'orlo di San Pietro, nei pressi della stazione. Usciva scavalcando la base di una grande e inutile porta carraia per l'apertura praticata in uno dei due battenti, poco più che una gattaiola, che si chiudeva dietro di sé. Che cosa si lasciasse dietro di sé? Il supporto della sua vita privata non se lo chiedevano i quattro ragazzini del rione che l'aspettavano trepidanti nella luce ancora livida delle mattinate invernali. Era il loro maestro ed essi si sarebbero accodati a lui nella discesa verso la scuola. Maestro Mossa si incamminava per i vicoli saltellando con le gambe piegate sui ciottoli mal connessi. Da ogni porta usciva un ragazzo e si univa agli altri, così che in breve tutta la scolaresca gli andava appresso come attratta da un flauto magico. E poiché egli aveva il passo ancora agile e lungo, il cammino diventava una corsa sempre più veloce che si arrestava alla soglia del convento. La scuola era infatti il convento dei francescani che in un tempo ormai immemorabile era stato soppresso e incamerato con tutti i beni degli ecclesiastici per qualche legge venuta di fuori. Il nome era rimasto, come era rimasto quello del vasto terreno adiacente che si continuava a chiamare la Tanca dei Frati, ed essere al convento, andare al convento, voleva dire essere a scuola, andare alla scuola. In realtà nulla era cambiato di fuori e di dentro, perché la gente si contentava di poco, o meglio, non esisteva il senso del poco. Era rimasta anche la campana nella nicchia in cima alla parete dipinta di giallo, come in tutte le chiesette agresti della Sardegna che non conoscono i campanili. E zio Longu, il bidello, alle 9:00 tirava la fune, come faceva il sagrestano ai tempi dei frati. Lo stesso suono annunciava l'inizio dell'ufficio sacro e dell'ufficio laico, come se nulla fosse avvenuto, e in realtà nulla era avvenuto. Non era come degli altri beni della Chiesa, che erano finiti per quattro soldi nelle mani dei privati meno spregiudicati o meno superstiziosi, ed erano quasi tutti di San Pietro. Del resto dei frati non era rimasta la più piccola traccia, tranne qualche stinco che di quando in quando affiorava nella palestra all'aperto. Nell'interno c'era ancora il grande atrio col pavimento di lavagna che si sbriciolava nell'umido e su di esso si aprivano due stanzoni col soffitto a volta. Quello a sinistra doveva essere stato la chiesa del convento perché dal buco della serratura si intravedeva qualche nicchia vuota, in una persino un santo con la mano alzata che insisteva a benedire in mezzo al ciarpame. Misteriosamente la porta restava sempre chiusa, ma può darsi che il tetto fosse da quella parte pericolante, come può darsi che quella fosse una specie di sagrestia o di refettorio o di parlatoio e che la chiesa fosse invece nello stanzone di destra, che era l'aula nella quale Maestro Mossa insegnava, perché alla cattedra, che poi non era che un tavolino, si ascendeva per quattro gradini che erano visibilmente i gradini di un altare. Il maestro, che era religiosissimo, non saliva mai quei gradini e se ne stava davanti ai ragazzi come uno di loro. E del resto, in quella stanza, si continuava a pregare perché il maestro tutte le mattine, prima di cominciare la lezione, faceva alzare in piedi gli alunni e tutti si facevano il segno della croce e ripetevano le parole del Padre Nostro. Dall'atrio si scendeva per una breve scala in quello che doveva essere stato il vero convento. Era una specie di quadrato con un cortile troppo piccolo per essere un chiostro e da due lunghi e opposti corridoi si accedeva alle aule che poi non erano che le celle dei frati. E in quelle celle, illuminate più da una feritoia che da una finestra e tanto alta che i frati potessero vedere Dio ma non il mondo, si stipava un numero incredibile di ragazzi, quasi un nuovo miracolo avesse moltiplicato lo spazio. Le celle dell'opposto corridoio, a un piano rialzato, erano destinate alla scuola normale, cioè ai giovani ormai adulti che si avviavano a diventare maestri secondo i nuovi ordinamenti, i quali volevano maestri colti, non povera gente, come maestro Mossa. Toni Servillo ha letto Il giorno del giudizio di Salvatore Satta, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.